La nuova strategia di Donald Trump sull'Afghanistan la sapremo alle 21 di questa sera. ISIS e talebani insieme adesso è ufficiale e poi Hong Kong ancora in piazza. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. It's a very big decision for me. I took over a mess and we're gonna make it a lot less messy. I still want to go ahead with the concert, especially the fact that I have the support of majority of people in Afghanistan. Buona giornata, buon lunedì, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Ben ritrovati, questo è Nessun Luogo è Lontano, il vostro osservatorio su tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. Con un occhio sempre a Marsiglia per capire le evoluzioni di quello che sembra non essere stato un atto terroristico, ma vedremo. E un occhio un po' più lontano, come avete sentito, appunto, in Afghanistan. I saluti vi arrivano anche da Antonio Tali e Elisa Pancaldi, che sono in redazione, e Gianmarco Ferronato, che è in regia. E vi ricordo anche le coordinate per interagire con noi, ovvero porre domande e questioni a me o ai miei ospiti. 349-238-6666, vi ricordo che il numero vale sia per SMS che per il WhatsApp. Siamo su Twitter, i due account da seguire sono NessunLuogo24, il mio Giampaz, e poi siamo su Facebook, la pagina è NessunLuogoLontano-Radio24. Allora, come preannunciato, tra poche ore parlerà il presidente Donald Trump alle 21 ore italiane, parlerà alle truppe americane, un discorso alle forze statunitensi che dovrà svelare quella che sarà la nuova strategia per l'Afghanistan. Parlerà alla base militare di Fort Myers, siamo nel sud-ovest della capitale Washington. Voi sapete che Donald Trump ha avuto, come dire, vari ripensamenti sull'impegno estero delle truppe americane, soprattutto in Afghanistan. In passato aveva criticato questo impegno, vedremo cosa dirà alle 21. Quindi partiamo dall'Afghanistan. Partiamo dall'Afghanistan, perché se vi ricordate, se avete seguito Nessun Luogo Lontano fin dalle prime puntate di quest'agosto, vi avevamo dato notizia di quell'attacco compiuto, sferrato appunto nei primi giorni di agosto al villaggio di Mirza Walang, distretto di Sayyad, Sarelpul è la provincia, condotto da, avevamo messo un grandissimo punto di domanda, da forze di ISIS in Afghanistan e talebani insieme. Ebbene, gli investigatori delle Nazioni Unite, notizie di poche ore fa, hanno confermato, come ha riportato il sito di Al Jazeera, la versione inglese, hanno riportato il fatto che avrebbero evidenze e prove che l'attacco è stato compiuto dai due gruppi congiuntamente. In quell'attacco, ricordiamo che i due gruppi fino a questo momento, ancora un grande punto di domanda, dobbiamo vedere gli sviluppi, erano acerrimi nemici. In quell'attacco morirono più di 50 abitanti di questo villaggio, vi sono state anche delle decapitazioni. Secondo gli investigatori ONU sono almeno 27 i civili uccisi, compresa una donna, 4 ragazzini, 13 uomini, alcuni al di sopra dei 60 anni. E poi alcuni elementi delle forze di sicurezza afghane, sempre secondo quanto riporta il documento appunto degli investigatori dell'ONU. Questo attacco è il primo tassello dell'analisi che cercheremo di fare quest'oggi. Il secondo, ve lo anticipavo inizio trasmissione, questa sera Donald Trump parlerà e fonti di stampa e indiscrezioni parlano di un possibile invio di 7, 8, 9 mila uomini in territorio afghano. Sotto quale cappello internazionale? Questa è una delle prime domande, e con quale obiettivo è la seconda domanda. Alcuni più smaliziati commentatori dicono Trump ha un po' di problemi a livello di politica interna, se ci seguite ve ne abbiamo dato conto, e quindi forse andare a riscaldare un dossier straniero può essere utile. Ci soccorre in questa analisi Giuliano Battiston, giornalista, freelance freelance ricercatore, lo potete leggere fra gli altri sull'Espresso, pagina 99. Fra i suoi libri ricordo quello dell'anno scorso, Arcipelago, Jihad, lo Stato Islamico e il ritorno di Al-Qaeda. Giuliano Battiston, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, è di poche ore fa, l'inchiesta è fresca fresca, investigatori delle Nazioni Unite sono andati a sentire abitanti di quel villaggio di Mirzawalang, che hanno concluso che sì, è stato così. Stato Islamico in Afghanistan e talebani congiuntamente hanno sferrato questo attacco. L'obiettivo erano forze governamentali e comunque dare una spallata al governo di Kabul. Ti stupisce il risultato di questa inchiesta, Giuliano Battiston? Sì, innanzitutto sono conclusioni preliminari, quindi si tratta di una prima investigazione a cui ne seguiranno delle altre. E il rapporto dice che c'è stata una collaborazione tra talebani e autoproclamati membri. Allora, Giuliano, ti interrompo perché la linea, non sei in Afghanistan, ma la linea sembra quasi afghana. Ti interrompo, proviamo a richiamarti. Nel frattempo, siccome ricorrono i 16 anni dall'inizio di questa lunghissima guerra, compreso e incluso il forte impegno statunitense in Afghanistan, proviamo a ricapitolare quello che è accaduto negli ultimi 16 anni. Il 7 ottobre 2001, a neanche un mese dall'attentato alle Torri Gemelle, inizia Enduring Freedom, l'operazione militare statunitense condotta per trovare Osama Bin Laden e liberare l'Afghanistan dai talebani. Nel 2003 la NATO avvia la missione di pace ISAF, International Security Assistance Force, con il compito di formare e addestrare il nuovo esercito afghano. La missione è terminata nel dicembre del 2014. Si tratta della missione più lunga e impegnativa condotta dalla NATO, che ha visto l'impiego di 130.000 militari della NATO e di altri stati. Nel 2010 il presidente statunitense Barack Obama annuncia che 10.000 militari lasceranno l'Afghanistan entro la fine dell'anno e che altri 23.000 soldati rientreranno entro la fine del 2012. Attualmente in Afghanistan vi sono 12.459 militari NATO e 8.400 militari statunitensi inquadrati nella NATO. Inoltre, gli Stati Uniti hanno sul campo altri 1.500 soldati che rispondono direttamente al Pentagono. Negli ultimi tre anni, la presenza militare statunitense è via via diminuita, dopo il picco massimo raggiunto tra il 2010 e il 2012, con quasi 100.000 soldati inviati. Tuttavia, in concomitanza con il ritiro delle truppe USA e di altre nazioni e la fine della missione NATO nel 2014, gli attacchi compiuti da parte dei talebani sono cresciuti vertiginosamente. Secondo le Nazioni Unite, solo nel 2016 sono 583.000 i civili che hanno abbandonato le proprie case. 7.920 persone sono rimaste ferite e i morti sono 3.498. Si tratta del maggior numero di vittime dal 2008 a oggi. Questa è la recente cronistoria dell'impegno internazionale in Afghanistan. Abbiamo recuperato la linea con Giuliano Battiston, giornalista freelance e ricercatore, al quale riporgo nuovamente la domanda perché la linea è disturbata. Giuliano, allora, ti stupisce il risultato di questa inchiesta? Abbiamo capito, sottolineavi il fatto che è un'inchiesta preliminare, quindi ancora investigazioni saranno in corso. Continua pure. Sì, mi stupisce proprio per questo, perché i due gruppi, lo Stato Islamico e i talebani, sono gruppi che rimangono costitutivamente antagonisti, lo hanno dichiarato più volte nei loro comunicati ufficiali e lo stanno dimostrando anche sul terreno di battaglia, anche in Afghanistan, dove si contendono il territorio. Questo episodio, che è avvenuto tra il 3 e il 5 agosto, segnala la facilità con cui alcuni militanti di medio calibro possono cambiare casacca per ragioni di opportunismo e di denari. Allora, stasera, come dicevamo, Trump parlerà alle forze statunitensi. Secondo alcune indiscrezioni si parla di un raddoppio delle truppe presenti. Poi, secondo anche alcuni analisti, il fatto del recente licenziamento di Steve Bannon, che era contrario ad aumentare le forze americane nel paese, potrebbe aver influito. Insomma, sapete, Trump cambia consiglieri continuamente ed è piuttosto ondivago, quantomeno nelle sue dichiarazioni. Poi magari un disegno in testa ce l'ha molto molto molto chiaro. Cosa ti aspetti dalle dichiarazioni di Trump, Giuliano Battiston, e poi con quale conseguenze? Poi ci andiamo. Beh, è giusto che Trump abbia deciso di aggiornare il popolo americano con un discorso diretto, pubblico, in televisione, anziché con un tweet. Mi sembra già un buon passo in avanti rispetto alla consuetudine. Le opzioni sul tavolo erano tre, appunto. La prima era quella di mandare un maggior numero di truppe con un impegno prolungato, quindi senza scadenza. ciò che era stato invece rinfacciato al presidente Obama, il fatto di aver indicato alle forze antigovernative il momento in cui le forze americane avrebbero cominciato ad essere ritirate. La seconda opzione era quella di privatizzare la guerra, che era portata avanti proprio da Steve Bannon, il capo stratega della Casa Bianca, figurato alcuni giorni Giuliano, fa. Giuliano, perdone, ti devo interrompere di nuovo, siamo particolarmente sfortunati questo lunedì, la linea ancora non è buona. Proviamo a richiamarti, ancora pochi secondi di pazienza, lo chiedo ai miei ascoltatori, a cui ricordo però il 349-238-6666, sia gli sms che i whatsapp, poi c'è Twitter, che è Nessun Luogo 24, oppure Giampazza, e Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24. Un ascoltatore mi chiede se sono sicuro che parlerà alle 21 italiane e non nel prime time USA, così Massimo da Cagliari, sì, le agenzie hanno battuto che la notizia secondo la quale dovrebbe parlare alle 21 appunto italiane. Torno a quel rapporto ripreso da Al Jazeera. La stessa Al Jazeera ha intervistato un giornalista afghano di lungo corso, Sami Yousafzai, che ha coperto da tempo quel lungo conflitto, lo ha seguito e lo ha raccontato per vari media, e spiega in questo modo, cito un suo virgolettato, questa joint venture, seppur temporanea, staremo a vedere, tra talebani e Stato Islamico in Afghanistan. E lui dice che entrambi i combattenti hanno un obiettivo, che è quello di causare il massimo danno alle forze governative e anche ovviamente ai simboli del governo nell'area, e questo, dice, potrebbe essere uno dei motivi per cui hanno condotto un attacco congiunto. Vediamo se riproviamo con Battiston. Ci stiamo riprovando? Sì, ce l'abbiamo, ci proviamo. Allora, quindi Giuliano Battiston stava dicendo opportunismo, che può essere opportunismo dei comandanti locali, evidentemente, insomma, i proclami a cui faceva riferimento Giuliano Battiston poi non ricadono immediatamente a cascata sulle milizie. L'Afghanistan è un territorio gigantesco, le strutture gerarchiche evidentemente sia di Stato Islamico in Afghanistan che dei talebani evidentemente ogni tanto hanno delle pecche e delle lacune. Allora, mentre continuiamo a provare a raggiungere Giuliano Battiston, anche per capire come potrà reagire Ashraf Ghani, il presidente afghano, alle dichiarazioni di Donald Trump, il raddoppio delle truppe statunitensi, anche come potrà reagire Mosca, la Russia, perché la Russia fino adesso, come dire, ha un po' cavalcato, ha tratto beneficio della presenza statunitense contro ISIS soprattutto, non dico che flirtava con i talebani, però in funzione anti-ISIS quantomeno era una presenza comoda. Come reagirà poi anche Mosca al discorso del 21 di Trump staremo a vedere. Adesso però, complice la latitanza, no, ce l'abbiamo, sì, perfetto, allora recuperiamo Giuliano. Giuliano, eccoci, vediamo se va meglio adesso. Eccoci, sì. Eccoci qua. Tornando alle decisioni di Trump, direi che sembra che abbia optato per la prima soluzione, quella di inviare un maggior numero di truppe. La questione vera è che al di là del numero di truppe che vorrà inviare Donald Trump concordemente con il segretario della difesa Mattis, rimangono tre questioni principali. La prima è che se non c'è un'azione diplomatica queste truppe non servono a niente, anzi rischiano di far diventare il paese ancora più instabile, questa è la prima. La seconda è che al di là del fronte internazionale c'è un fronte interno molto delicato, ovvero un governo che è del tutto screditato, il governo afghano, è tutto screditato agli occhi della popolazione, quindi privo di legittimità. La terza questione è quella a cui accennavi tu, il quadro regionale. Il segretario della difesa statunitense ha voluto ritardare l'annuncio sulla politica afghana proprio perché voleva un segno di discontinuità attraverso il quale enfatizzare il quadro regionale, che è molto complicato perché gli Stati Uniti non si rendono conto che la stessa presenza delle truppe americane in un'area così cruciale come l'Afghanistan, in Asia centrale, preoccupa molto sia l'Iran, con cui l'Afghanistan condivide un lungo confine ad ovest, sia il Pakistan, con cui condivide un lungo confine ad est, sia la parte settentrionale che riguarda appunto la Russia e parzialmente anche la Cina. Donald Trump deve tenere conto di tutto questo, ma credo proprio che non abbia le capacità politiche per adottare una soluzione che sia innanzitutto diplomatica e non militare. Correttissimo, però c'è un grandissimo punto di domanda che rimane dalla tua analisi, cioè quella lunghissima presenza a 16 anni, prima diciamo aggressiva con un mandato molto preciso, no? Di combattere gli insorti, poi di addestramento. Quanto è servito quel lungo addestramento in cui ha giocato un ruolo anche l'esercito italiano, perché le forze di sicurezza afghane hanno ricevuto insomma un lungo addestramento, e adesso però molti analisti dicono attenzione però perché esercito e polizia afghana non sono in grado di camminare sulle proprie gambe. Sì, si è trattato di un addestramento piuttosto lungo, anche se è partito un po' in ritardo, perché questo ritardo ha riflettuto in qualche modo il carattere intermittente, oscillante, incerto degli obiettivi della presenza americana in primo luogo in Afghanistan. La cosa a cui Donald Trump probabilmente non risponderà questa notte è quali siano gli obiettivi finali della presenza americana in Afghanistan. Sono cambiati molto in questi anni, si è partiti con l'idea di dare una lezione ai talebani che si pensava fossero alleati di Al-Qaeda, poi si è pensato di trasformare il paese in una sorta di Corea del Sud, quindi dell'Asia centrale, un paese malleabile e politicamente vicino che ospitasse le basi militari, poi si è pensato di dare luogo a uno state building che in qualche modo legittimasse la presenza militare attraverso istituzioni democratiche, infine si è passati a un processo negoziale che è stato subito interrotto con l'uccisione del leader Mansour nel 2016. Oggi rimane un quadro molto difficile in cui appunto le forze governative afghane rispecchiano la stessa debolezza e la stessa corruzione del governo afghano. Giuliano Battistone, prima di lasciarti, ci aiuti a capire meglio chi controlla cosa e dove, perché abbiamo, dicevamo, presenza internazionale, presenza dei talebani, presenza dello Stato Islamico e presenza invece appunto delle forze di sicurezza afghane. A guardare alcune mappe, ho visto la BBC, ho visto Al Jazeera, è veramente un puzzle, un risico di veramente difficile comprensione. Ci aiuti con le parole, vuole dire senza avere la mappa sotto mano, a ricostruire un po' queste presenze? Sono tanti attori in campo in Afghanistan. Sono tanti attori in campo, tanto che molti afghani dicono che il vero problema è proprio quello, cioè gli interessi sovrapposti su un territorio che è unico e che è molto diversificato. Innanzitutto c'è la spaccatura tra città, cittadine e aree rurali. Nelle città, nella maggior parte delle città, il governo, le istituzioni esercitano il controllo, una forma di controllo, una certa forma di sovranità, nelle aree rurali molto meno. I talebani sono forti nelle province tradizionali, nelle roccaforti, nelle province di Helmand, in tutta la fascia che dal sud-est sale su e costeggia il Pakistan. In quell'area sta cercando di mettere i piedi anche lo Stato Islamico, che è abbastanza forte soltanto in un paio di province, quella di Nangarhar e quella del Kunar, e lo fa occupando quei posti che non sono occupati né dal governo afghano né dai talebani, che in qualche modo offrono alla popolazione sì. Una sorta di controgoverno. Sì. Poi sono alcune aree del paese, le aree settentrionali, che prima erano in qualche modo immuni alla militanza antigovernativa e che sempre di più negli ultimi anni, anche a causa della presenza di militanti uzbeki, tagiki, kirghisi e così via, hanno dato vita a gruppi, in qualche caso anche ibridi, come abbiamo visto nella prima parte di questa trasmissione con l'episodio del 3 agosto, con l'eccidio nella provincia di Saripul. Sì. Fra l'altro, Giuliano Battistone, tra poco ti lascio davvero, citavi le varie componenti etniche, no, dell'Afghanistan, che si ritrovano, guarda caso, anche all'interno dell'esercito afghano. È stato forse uno dei grandi motivi, parlo di una mia esperienza diretta oramai 2-3 anni fa, anche di più, nel mettere assieme, no, componenti così diverse. Noi consideriamo l'Afghanistan un tutt'uno quando in realtà appunto le etnie sono diverse, a volte le lingue sono diverse, e questo esercito tenuto insieme dalla presenza internazionale a volte probabilmente, lo chiedo a te, soffre anche di dinamiche etniche che sono forti. Soffre di queste dinamiche perché sono state fortemente strumentalizzate, in particolare nella guerra civile degli anni 90, quando il discrimine etnico, che non era mai stato così determinante, invece è diventato un criterio per distinguere i buoni dai cattivi, l'amico dal nemico. E quella guerra civile, che ha mietuto tante vittime, ha portato con sé, ancora porta con sé, un'eredità di dubbi, di sospetti verso le comunità che non sono la propria, e proprio su queste differenze cerca di lucrare in particolare lo Stato Islamico, che sta puntando sempre di più alla componente minoritaria per eccellenza, che è quella degli Hazara, gli sciiti afghani. Grazie mille Giuliano Battiston per essere stato con noi e averci meglio raccontato la complessità del teatro afghano. Lo ricordo, giornalista freelance, ricercatore, scrive fra gli altri su Espresso, pagina 99, ricordo anche uno dei suoi ultimi libri, Arcipelago Jihad, lo Stato Islamico e il ritorno dell'Al-Qaeda, direi quanto mai attuale. Grazie mille Giuliano Battiston, buona giornata, buon lavoro. Grazie, grazie a voi, buon lavoro. (349) 238-6666, gentili ascoltatrici e ascoltatori, per commentare la prima lunga pagina di Nessun Luogo Lontano, tutta dedicata all'Afghanistan. Ve lo ricordo, tra poche ore parla Donald Trump alle truppe statunitensi in questa base militare. Ragionevolmente, secondo le indiscrezioni di stampa, proverà a inviare altre truppe in territorio afghano, raddoppiando la presenza statunitense militare nell'importante paese asiatico. Secondo tassello della, da cui prende le mosse la nostra analisi, la conferma da parte, per ora diciamo, da parte degli investigatori delle Nazioni Unite, quell'attacco di cui vi abbiamo raccontato i primi di agosto è stato sferrato da Stato Islamico più talebani insieme. Insomma, questo grande punto di domanda rischia di sparigliare le carte, quelle carte delle fragili alleanze afghane che vi stiamo raccontando. Ne approfitto per rispondere a un WhatsApp che è arrivato un Twitter che è arrivato all'indirizzo Nessun Luogo 24, che evoca la presenza cinese in territorio afghano. In realtà a febbraio-marzo di quest'anno sono stati riferiti movimenti di militari cinesi in Afghanistan, ma Pechino ha sempre smentito. Mentre, quello sì, vi sono fitte relazioni dal punto di vista economico, perché Pechino a giugno ha iniziato una mediazione per le tensioni tra Pakistan e Afghanistan, tentando quindi di svolgere un importante ruolo di mediazione. E poi si parla da tempo, lo sapete, di un'estensione della nuova via della seta anche in Afghanistan, se ne parla almeno dal maggio scorso. Continuiamo a parlare di Afghanistan, ma lo facciamo andando al cinema. Sono Richie Lenz, è un vero piacere. Vi racconto una storia. Sono tra i più grandi manager di cantanti rock e tu sei fortunata perché ti ho organizzato il miglior tour degli ultimi anni. In Afghanistan. Vorrei una suite junior executive, decisamente non sulla strada. Eccomi, bellezza. La tua cantante è sparita. Mi ha rubato il portafogli, i soldi, il passaporto. Sono proprio nella merda. Benvenuto in Afghanistan. È bello essere qui. Allora, vi porto al cinema perché il film di cui avete sentito un brevissimo estratto è Rock the Casbah, con Bill Murray e Bruce Willis. E questo film racconta le vicende di una pop star che molto, molto sembrano vicine a quelle di una storia reale, che è la cantante afghana Ariana Said. Perché vi dico questo? Perché vi parlo di cinema e di musica in Afghanistan? Perché è venuto il momento di aprire una piccola parentesi tutta dedicata alla vita culturale afghana. E con chi non possiamo parlarne se non Francesca Recchia, che ci parla da Londra ma vive a Kabul, ricercatrice, scrittrice, indaga l'arte soprattutto nelle zone di conflitto ed è soprattutto dannatamente innamorata di Kabul. Francesca Recchia, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Ciao, ciao. Allora, Francesca, dobbiamo fare una piccola pausa, mi spiace, perché dopo questo inizio che sembrava una cavalcata ti devo bloccare prima ancora dell'inizio. Piccola pausa, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è Lontano. La voce che sentite è quella di Ariana Said, la prima forse grande pop cantante pop afghana che ha raggiunto celebrità non soltanto nel suo paese ma anche a livello internazionale. È diventata famosa nel 2008, è stata anche giudice di Voice of Afghanistan, che è un talent a tutti gli effetti come quelli che possiamo

Sì e no, nel senso, ovviamente è un tema che è presente come in quanto parte della vita, no? Però non è un tema che per molti ha definito la direzione della produzione artistica. E questo, vabbè, era un punto che sottolineava Giuliano in precedenza. Sì. La differenza ovviamente è significativa fra le zone urbane e le zone rurali. In città, a Kabul, ma anche a Mazar-i Sharif, a Herat, i giovani sono assolutamente convinti del fatto che i talebani non riusciranno mai a riprendere in mano, a riportare il paese indietro sì. nei secoli. Sì. E quindi gli artisti sono, diciamo, abbastanza all'avanguardia in questo. Sono presenti e si fanno sentire rispetto, no, a questo tipo di proteste, di resistenza. Sì. Però, ecco, come dicevo, la differenza è abissale tra le città e le zone più interne e rurali. Sì. Francesca, stai con noi, abbiamo l'ultimo minutino. C'è un'altra curiosità da parte di un ascoltatore. Intanto io rispondo a un altro ascoltatore su WhatsApp. Dice: ma è sicuro che lo Stato Islamico in Afghanistan si appoggi sugli sciiti? No, se ho detto così è stato un lapsus, assolutamente è esattamente il contrario, tanto che le minoranze sciite sono ultimamente un target molto molto frequente da parte di quella formazione. Al volissimo, Francesca Recchia, prima di lasciarti al tuo lavoro lì a Londra, ti chiedono se non hai paura di vivere a Kabul. Come ti muovi all'interno della città, Francesca? Sono tanti anni che faccio questo lavoro e quindi uno degli strumenti del mestiere è imparare a gestire e convivere con la paura. Se la paura prende il sopravvento, è bene che uno faccia le valigie e torni a casa, perché poi dopo tutto il resto perde di senso. Grazie mille Francesca Recchia, io ti auguro invece di fare le valigie molto presto e tornare nella tua Kabul, così ce la racconterai ancora un'altra volta. Grazie mille Francesca Recchia per essere stata con noi. Sulla nostra pagina Facebook postiamo il tuo sito internet e l'account Twitter per seguirti. Grazie mille, buona giornata, buon lavoro. Grazie, a presto. Traffico? Sì, traffico. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, ultima parte di Nessun Luogo Lontano in questa prima puntata della settimana. Dopo questa lunga pagina tutta dedicata all'Afghanistan, siamo in attesa delle dichiarazioni di Donald Trump. Se guardate i principali network internazionali, non solo la CNN ma anche BBC, France 24, sono lì pronti a cogliere quelle che saranno le parole di Donald Trump. Altre truppe in Afghanistan? Punto di domanda, ragionevolmente sarà sì. E poi l'altro punto di partenza è quell'inchiesta da parte di investigatori ONU che dice: attenzione, perché almeno in una singola operazione Stato Islamico in Afghanistan e talebani hanno agito insieme. Da lì poi abbiamo sviluppato il dossier afghano fino ad andare nei meandri di Kabul per capire e comprendere che esiste una scena artistica anche molto molto vitale. Adesso però è il momento di andare a Hong Kong. Andiamo a Hong Kong perché, se vi ricordate, proprio pochi giorni fa con Antonio Taglia vi avevamo raccontato della condanna ai tre leader del movimento studentesco che nel 2014 aveva occupato Central e le altre vie di Hong Kong, il movimento degli ombrelli, un movimento giovanile che aveva veramente occupato non soltanto le strade ma anche le prime pagine di tutti i giornali. Dopo le condanne di Joshua Wong, Nathan Law e Alex Cho, domenica, quindi ieri, 22.000 persone sono scese in piazza a Central, in quella che è la più vasta manifestazione da quel 2014. Che aria si respira a Hong Kong? Giriamo alla domanda a Ilaria Maria Sala, che è una giornalista freelance, scrive fra gli altri per Quartz e il Guardian. Il suo ultimo libro, Lettere dalla Cina, una città. Ilaria Maria Sala, buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, prima domanda, che aria tira a Hong Kong dopo quelle 22.000 persone che avrei visto sfilare a Central? Tira un'aria relativamente più ottimista di quello che non fosse la settimana scorsa. In parte queste sentenze che erano abbastanza inaspettate hanno però ridato una certa voglia di ai gruppi pro-democrazia di Hong Kong, una certa voglia di farsi sentire, di farsi vedere, di uscire un po' da una lunga depressione che si è imposta sulla città negli ultimi 2 anni circa. Per cui la partecipazione più alta del previsto, tra l'altro, a Hong Kong in questi giorni sta facendo, c'è un'ondata di caldo che mette abbastanza alla prova anche le volontà di manifestare. Questo appunto ha dato una specie di colpo di energia al movimento pro-democrazia, che invece ha subito dal movimento degli ombrelli che ricordavate ora, ha subito una serie di prove che hanno causato questa affievolirsi della voglia di fare politica, di dimostrare e di credere che questo possa avere un certo ruolo nel futuro. Sì, e, questa discesa in piazza di 22.000 persone è secondo te il preludio a una nuova forma di protesta, a una nuova ondata di protesta che potrebbe durare giorni, o si è trattato, come dire, di un fuoco che si è acceso ma si è già spento? Ma né l'una né l'altra cosa, nel senso che quello che il movimento pro-democrazia di Hong Kong sta cercando di fare ora è capire quali possano essere le vie possibili per portare avanti appunto per aprire nuovi spazi politici, portare avanti la lotta per la democratizzazione di Hong Kong. Fino ad ora quello che abbiamo avuto dal 2014 in poi sono stati dei tentativi di portare avanti questo tramite giocando all'interno del sistema, per cui quando ci furono le elezioni del mini parlamento di Hong Kong, del LegCo, un anno dopo nel 2015, un anno dopo il movimento degli ombrelli, molte persone, tra cui Nai San Loh stesso, di cui abbiamo parlato ora, uno dei leader studenteschi del movimento degli ombrelli, dunque, avevano deciso di partecipare alle elezioni. Sono delle elezioni semi-truccate, come viene detto qui, nel senso che solo parte del Parlamento viene eletto per suffragio universale, un'altra parte invece viene eletta tramite grandi elettori, per cui solamente un voto corporativo, diciamo. E anche una volta che poi si viene eletto, il mini parlamento di Hong Kong ha dei poteri molto limitati, non può proporre leggi, per esempio, ma può solamente approvare o bocciare quelle che vengono proposte dal governo. Sì. Però, appunto, malgrado tutti questi paletti, c'era stata la volontà di provare a cambiare le cose dall'interno, per cui partecipare alle elezioni. Il governo però ha trovato che anche questo fosse già troppo, per cui hanno squalificato 8 finora, forse ne verranno squalificati altre 2, degli eletti nel campo pro-democratico, fra cui Nai San Loh, il leader studentesco, a cui è stato detto che quando ha pronunciato il giuramento con cui si accede alla legislatura, l'ha fatto con un'intonazione della voce che mostrava mancanza di solennità e sincerità, per cui è stato squalificato. Dopodiché è stato... No, è che questo tipo di motivazioni evidentemente fanno sorridere, no? Uno sguardo occidentale su Hong Kong, no? Ilaria Maria Sala. Fanno sorridere perché è talmente pretestuoso, deprimono però chi invece dice: ma come, abbiamo cercato di giocare con le regole che avete imposto voi, certo, però vi facciamo talmente paura che trovate appunto questi pretesti ridicoli. Un altro è stato squalificato per aver avuto invece, per essersi messo intorno alle spalle una bandiera che diceva: Hong Kong non è la Cina. Per cui, beh, questa di già nuovo, diciamo che dal punto di vista della presa di posizione politica forse era un pochino più forte, no? Dell'intonazione. Forse è un pochino più forte, però lo però stesso dobbiamo tenere presente che all'interno della legislatura finora si erano viste cose abbastanza folcloristiche durante questi giuramenti, per cui pugni alzati, oppure il giuramento può essere fatto in tre lingue diverse, in inglese, in mandarino, che è la lingua che viene parlata nella maggior parte della Cina, oppure in cantonese. E quelli che volevano mostrare grande solidarietà con Pechino, sostegno a Pechino, fanno dei giuramenti in un mandarino che fa spavento. E volendo andare a cercare, che è una cosa che stanno cercando di dire alcuni dei democratici, sbagliano la pronuncia talmente tanto che dicono cose completamente diverse, per cui c'è un tentativo di portare di dire che anche loro dovrebbero essere squalificati perché hanno detto delle bestialità pur non volendo, per cui appunto siamo in una situazione in cui è chiaro che c'è un tentativo di persecuzione politica di questi gruppi politici che sono emersi dal movimento degli ombrelli, per cui l'atmosfera in gran parte fra persone molto giovani, come erano quelle che hanno preso parte al movimento degli ombrelli, era di depressione, un sentimento di non avere tante possibilità per far sentire la propria voce, per cambiare le cose, certo, per avere finalmente quell'agognato suffragio universale che è stato poi la richiesta principale, certo, alla base delle manifestazioni del 2014. E vedremo insomma se nei prossimi giorni questo movimento avrà ancora voce per le strade di Hong Kong. Grazie mille a Ilaria Maria Sala, giornalista freelance, la potete leggere su Quartz, sul Guardian, ricordo il suo ultimo libro, Lettere dalla Cina. Grazie mille Ilaria, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Allora, siamo quasi in chiusura, ho due minutini, vi devo parlare di un discorso, un altro discorso di un altro presidente in Nigeria. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Imamul Anbiya wa Sayyidul Muslihin. Quello che sentite è una delle ultime dichiarazioni di Abubakar Shekau, leader di Boko Haram, mentre sabato Muhammadu Buhari, presidente nigeriano, ha fatto ritorno ad Abuja. Perché dico ha fatto ritorno? Beh, perché era mancato da mesi, da gennaio, per un problema medico, per una malattia di cui non ha mai svelato l'origine. Buhari aveva lasciato fondamentalmente la presidenza, lasciando in carico al suo vice tutta la gestione complessa del governo federale nigeriano. Sabato scorso è tornato, è stato accolto in pompa magna all'aeroporto di Abuja e si è detto pronto a riprendere le redini di questo governo, nonostante l'opposizione avesse tuonato: attenzione, siamo senza presidente, lui dovrebbe semplicemente dimettersi. Perché vi parlo di nuovo della Nigeria? Perché adesso che Buhari è tornato c'è un grandissimo dossier che si chiama appunto Boko Haram, che si chiama appunto Abubakar Shekau. Il presidente Buhari ha parlato e fra le altre cose ha detto, attenzione, l'hashtag, se volessimo sintetizzare il suo discorso, è unità nazionale. Insomma, il problema vero è un paese fondamentalmente spaccato in due, con tendenze indipendentiste, si è molto parlato anche del Biafra ultimamente, ma soprattutto di questa presenza nel nord-est, Boko Haram, affiliato allo Stato Islamico, che compie tantissimi attacchi. L'ultimissimo, proprio il giorno di Ferragosto, ha fatto decine di morti a 30 km da Maiduguri. Questo rimane il grandissimo dossier sul tavolo del presidente Buhari, ma abbiamo ancora due settimane di Nessun Luogo Lontano per darvi conto di quello che farà appunto Buhari nel nord-est. E adesso i titoli di coda. Con i quali ringrazio Antonio Talia, Elisa Pancaldi che sono in redazione, Gianmarco Ferronato che è in regia, voi per essere stati all'ascolto. Vi ricordo la replica ore 20 questa sera, ore 6 domattina se siete mattinieri, e se no ci sentiamo domattina ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.